una tempesta, come un tornado irrompi, non ti tengo più testa, come un tornado prendi nel profondo del cuore, come un tornado entri e ti grido il mio amore, come un tornado fuggi. Ah, perché così l'amore, ma perché mi brucia il cuore? Si alza il sole al mattino ed un tornado incontro, so di averti vicino perché è un tornado dentro, e non passo un minuto, come un tornado incalzi, già mi sento perduto, come un tornado avanzi. Ma perché è così l'amore, ma perché mi brucia il cuore? Tempesta, come un tornado irrompi, forse ho perso la testa, come un tornado prendi nel più fondo del cuore, come un tornado entri e ti grido il mio amore, come un tornado fuori.